Sì, allora abbiamo quelli di Amena Pace, partigiana, pacifista, femminista. Vai, che meglio. Come? Non so se non si può più dire, ma anche comunista. Comunista, certo. Potresti dirci come mai hai scelto di entrare nella resistenza? Sì. Ecco, è difficile, bisogna raccontare qualche cosa. La mia famiglia non era una famiglia fascista, anzi mio padre era un mazziniano, mia madre era la figlia di un orfana di un ferroviere anarco-sindacalista, quindi nella mia famiglia si parlava male del fascismo, però la scuola era completamente fascistizzata, quindi c'era una grande concorrenza, veramente. Allora, io devo dire che c'è un episodio che mi ha proprio fatto partire con una coscienza antifascista, ed è che un giorno andavo a scuola e una mia compagna di classe non è venuta a scuola, né lei né la sua sorella, che era compagna di classe di mia sorella. Alla fine della mattina andiamo a casa sua a portare i compiti, come si usava allora. Suoniamo e la loro domestica dice: non servono i compiti, tanto non verranno più a scuola. E noi domandiamo perché, lei risponde: perché sono ebrei. E io non riesco a capire cosa voglia dire, tanto che tornando a casa dico alla mia sorella minore, a cui io dovevo perciò spiegare il mondo: quella ragazza lì deve essere proprio un po' di campagna, non sarà mica una malattia infettiva essere ebrei, perché l'unica ragione per cui non si poteva andare a scuola era che uno aveva l'osso canino o il morbillo e doveva stare a casa 40 giorni, perdeva l'anno. A casa però poi chiediamo a mio padre, lui dice: sì, è vero, hanno fatto una legge che possono andare a scuola solo gli ariani. E noi diciamo: ma chi sono gli ariani? Mio padre dice: mi vergogno, ma siamo noi. Allora mi chiediamo, e io mi vergogno di stare in un paese così. Comincio a maturare un'idea di distacco, di anche disgusto di queste cose, comincio perciò ad aprire gli occhi. Poi passano gli anni, intanto io studio, e a scuola, la scuola è completamente fascistizzata. Per capire se un professore era fascista o no, c'erano solo degli indizi. Per esempio, durante la guerra d'Etiopia, anche la guerra di Spagna, alla prima ora del lunedì mattina tutti i professori dovevano commentare i bollettini di guerra della settimana precedente. Noi avevamo un professore di greco, io facevo il liceo classico, terribilissimo, molto bravo, e per caso nella mia classe compariva il lunedì mattina. Noi avremmo tanto voluto che perdesse l'ora a raccontarci le storie, e invece lui mai, arrivava alla fine dell'ora e diceva: oh, mi sono dimenticato, e tutti i lunedì si dimenticava. E quindi abbiamo cominciato a sospettare che non fosse d'accordo col regime. Poi una volta si è fatta una lezione straordinariamente lirica su Armodio e Aristogitone, i tirannicidi di Atene. Come mai? Abbiamo chiesto al professore di filosofia, e ho detto: sì, perché San Tommaso dice che siccome i tiranni sono gli uccisori del popolo, il popolo li può uccidere come legittima difesa. Noi abbiamo capito che il professore di greco e quello di filosofia non erano fascisti, e si andava avanti in questo modo. Poi naturalmente tutto diventa più chiaro l'8 settembre, perché l'8 settembre tutto l'esercito italiano si disfa, arrivano i nazi che erano già lì, e cominciano le cose terribili: alcuni generali che consegnano i soldati ai nazi, altri che cominciano a lottare, una confusione terribile all'interno della quale però noi decidiamo, mio padre viene preso e portato in campo di concentramento perché era militare in quel momento, noi siamo sfollati perché abitavamo vicino alla stazione. Un giorno, mentre venivo con mia sorella verso Novara per andare a scuola, ci fermano due ragazzi in borghese ma con due fucili sulla spalla, e allora noi ci rendiamo conto che la resistenza c'è. A questo punto io mi vado a fare, vado a parlare con quei famosi professori di cui dicevo, e loro mi dicono: come faccio per raggiungere la resistenza? E così è cominciata. Sono decine di migliaia di storie di questo tipo. E qual è stato il tuo ruolo all'interno della tua vita? Allora, io ero staffetta del CLN di Novara, che era una città importante per la resistenza, perché nell'Arsesia c'erano i garibaldini e i matteotti con Moscatelli comandante, in Val d'Ossola c'è stata la Repubblica dell'Ossola, sul Lago Maggiore c'erano Giustizia e Libertà. Io perciò dovevo andare in tutte queste direzioni e portavo ordini, informazioni, che dove stavano i tedeschi, dove stavano i repubblichini. Poi notizie su chi veniva preso, perché così se c'era qualcuno che doveva nascondersi si nascondeva, munizioni, non so, medicinali, plastico per attentati, queste robe qua facevo, andavo su. E il tuo nome di battaglia qual era? Bruna. Mai? Perché eravamo vicino di banco due ragazze, una bionda e io loro ero mora, adesso sono bianca, e loro una si chiamava Chiara e una Bruna, proprio così. Del ruolo delle donne all'interno del movimento di liberazione come di un semplice contributo, no? Ma noi, insomma, da quello che hai detto più volte, questo apporto, insomma, non è stato un semplice apporto. È stato fondamentale per la resistenza, perché potesse avere qualche successo, e per le donne, per la maturazione della propria coscienza politica. Bisogna pensare che le donne non avevano neanche diritto di voto, sotto il fascismo dovevano fare solo tanti figli per la patria fascista, delle robe terribili, quindi bisogna sottolineare e valorizzare questo, perché è un passaggio assolutamente decisivo nella storia delle donne italiane. E questa partecipazione è stato, diciamo così, un primo passo di emancipazione femminile, no? È stata una ripresa. Ma dopo? È stata una ripresa, perché prima del fascismo in Italia il movimento di emancipazione c'era, c'è quello cattolico e quello socialista e quello liberale. Poi 20 anni di fascismo interrompono questa cosa, l'emancipazione femminile viene considerata e dichiarata una cosa bruttissima da rifiutare, per cui poi dopo il 45 si ricomincia quasi da zero. Alla Costituente ci furono un po' di donne anche importanti, e nella Costituzione questa cosa si vede, perché si parla di uguaglianza senza distinzione di sesso, razza, eccetera, della maternità, ma anche della donna proprio in quanto lavoratrice. Insomma, è una Costituzione avanzata anche sotto questo profilo. Non è stata poi applicata magari tutta, ma e quindi poi quando il movimento di emancipazione ricomincia attraverso l'UDI, l'Unione Donne Italiane, che è stata presente nella resistenza sotto il nome di gruppi di difesa donna, e che erano 70.000, mica una, insomma, proprio tante eravamo, e insomma poi viene fuori il femminismo degli anni 70, e oramai il movimento femminista è una storia, insomma. Nel femminismo degli anni 70 tu come ti sei collocata? Insomma, qual è? Subito femminista sfrenata, assolutamente, tutte le lotte per il divorzio, l'aborto, la parità, soprattutto i temi della differenza, io sono femminista della differenza. Sì. E cosa ne pensi di oggi, insomma, di questi continui attacchi al corpo delle donne? Sono uno dei segni più pesanti della egemonia della destra, e io spero tanto di poter passare il testimone alle giovani, che poi lo svilupperanno nelle forme che a loro piace, perché la storia non si può trasmettere come fosse un orecchino o una collana, ecco. Va bene, un consiglio che ci dai su come affrontarle poi queste problematiche, ma anche come essere propositive nel comunicarle, no? Perché la staffetta può passare da te a noi, ma anche da noi ad altre, no? Certo, deve. Secondo me la cosa principale è essere molto forti su se stesse. No, a me non piace il femminismo rivendicativo e lamentatorio, invece quello proprio l'affermazione di sé. È l'altra grande contraddizione che attraversa la storia, c'è quella capitale lavoro e c'è quella uomo-donna, sono le due fondamentali, quindi molto orgogliose. Va bene, ringraziamo la Festival Sociale delle Culture Antifasciste, grazie. Ciao.